segno. A disegno si audace sovrinto per il volo. Ma va, tosto alla reggia, e di Giustino ritraccia ogni pensiero. Politico timor, quanto sei fiero!